25. Signore e signori, stasera è con noi l'uomo che può farvi morire dal ridere. Ecco a voi, Saverio Grapatax. Applausi, carrellata sul pubblico. Grazie, grazie. Grapatax si inchina, parla a mani giunte con aria ispirata. Ogni serata nel nostro splendido paese è felice e particolare, ma questa serata è particolarmente felice e particolare. Abbiamo infatti con noi l'onorevole Enoch. O contraddizione, musa del comico, o diva ironia, o elegante mantello degli humor, spalla della satira, e lama del vizio e gavettone del lazzo, e voi, giochi di parole e nuvole del nonsense, e tu, amica dei comici, sola vera ispiratrice, sguardo severo, spleen, tragedia, serietà, tu, o morte, aiutami a cantare le lodi di un uomo le cui orme dei passi spietati resteranno nella storia, un uomo di alto ingegno e provvido potere. Saprò trovare le parole acconce? Spero di sì. Il gerarca Enoch, per cominciare, è un ladro. Oh, non sussurrate, non sbigottite. Questa parola ha nella mia bocca la delicatezza di una frase d'amore. È naturalmente ladro, poiché in un mondo di ladri egli cercò armonia e coerenza. Iniziò la carriera speculando sui terreni. Sui terreni costruì case che crollavano. Vinse gli appalti di ricostruzione. Costruì case che ricrollavano. Ora vive in un alto grattacielo, ma non ha dimenticato il tempo in cui costruiva misere case che crollavano. Non ha dimenticato le sue umili origini. Anche i suoi grattacieli crollano. Ciò va a suo onore. Dicono che il gerarca Enoch sia un mafioso. Egli lo nega. Se mi vedete nei ristoranti frequentati dai mafiosi, dice, non per questo sono mafioso. Forse che se qualcuno frequenta i ristoranti cinesi, viene accusato di essere cinese? Ha ragione. Dicono che Enoch faccia parte di una loggia segreta di incappucciati che si scambiano favori e tramano intrighi e si regalano banche. Ma ciò non è normale socievolezza umana? Forse che ogni famiglia, gruppo sodale, squadra di calcio, folla di linciatori, non è in qualche modo una setta? Ameremo forse il moralista solitario e cinico, lo sterile anacoreta, lo sprezzante eremita e non piuttosto la compagnia degli amici più cari? Si dice che Enoch faccia buttare in mare i suoi nemici con i piedi in un blocco di cemento. Non è forse da apprezzare questo? Certamente ognuno di voi, almeno una volta nella vita, ha provato ad annegarsi e conosce l'orribile sensazione del proprio corpo galleggiante che si oppone al nostro scopo e conosce la fatica immensa che costa sprofondare, i tentativi goffi che finiscono in indigestioni d'acqua salata e umilianti salvataggi da parte di rozzi bagnini. Un blocco di cemento vi guida nel profondo blu, dolcemente, senza pena alcuna. Inoltre, quando sarete sul fondo, sul vostro piedistallo, soldatini del mare, quanta allegria e gioia recherete ai pesci, che vedranno il loro paesaggio arricchito di una così graziosa statua. Si dice che Enoch faccia ammazzare i giudici che lo vogliono condannare. Ma nella nostra Costituzione non è forse sancito il diritto alla difesa per ogni imputato? Enoch, dicono, è anche un corruttore. Ma è un corruttore onesto. In 20 anni di corruzione nessuno ha mai ricevuto da lui una cifra inferiore al pattuito. A volte, anzi, aggiunge di sua iniziativa una somma a qualche tangente, a qualche bustarella. Come descrivere la gioia del corrotto che si vede corrotto oltre i suoi stessi meriti? Sapete che ci sono funzionari che devono aspettare interi mesi per venire pagati dai loro corruttori e spesso sono pagati con cambiali o assegni a vuoto. Non è disonesto tutto ciò? Ebbene, Enoch è di tutt'altra pasta. Enoch, si dice, vende armi. Certamente è così, ma un'arma è un oggetto come un altro. Non spara da sola. Non si muore solo perché si tiene in mano un'arma. Forse che noi condanniamo un salumiere perché vende prosciutti? Eppure un prosciutto può diventare ben più pericoloso di un'arma. Usato come clava, può fracassare una testa. Mangiato in quantità smodata, può uccidere per indigestione. Trigliceridi, butolino, soffocamento. Cadendo dal soffitto della cantina, può stroncare più di una vita. Inoltre, il prosciutto nasce da un delitto. Non si deve ammazzare un maiale per fare una pistola. Per fare un prosciutto, sì. Allora, ripeto, è forse Enoch peggio di un salumiere? Enoch, dicono, ha dei segreti. Anch'io ne ho. Enoch dice menzogne. Anch'io ne dico. Enoch ha abbandonato il suo miglior amico in mano ai terroristi e lo ha lasciato uccidere senza muovere un dito. perché egli ha posto al di sopra dell'amico lo Stato. Enoch ha anche tentato un colpo di Stato, perché egli ha posto al di sopra dello Stato l'idea dello Stato. Enoch si è molto arricchito, dicono le leggende. Possiede una barca a vela di 50 metri, con vele di cashmere e 3 piscine, di cui una per le aragoste. Possiede una villa piena di opere d'arte, 160 metri di impressionisti, 12 metri di Caravaggio, 300 chili di Picassi, una pila di Klee alta così e un tot Chagall. Ha 12 auto blindate, una Vespa corazzata e una bicicletta che morde. Ma cosa sono queste ricchezze rispetto al sorriso di un bambino? Enoch mantiene 112 amanti, a ognuna delle quali ha regalato un anello di diamanti, un'auto con autista, un appartamento, un canale TV e una sveglia al quarzo. Ha terreni, ville, aiuole, campi di cavoli, garage, isole, vigneti. E allora? È forse male volere un tetto, amare l'arte, fare regali a chi si ama? Enoch, dicono, è proprietario del 90% dei giornali e vuole il monopolio completo dell'informazione. Bugie. Non so dove l'avete letto, ma aspettate ancora un 10% e non lo leggerete più. Enoch, si dice, è un uomo pericoloso per la nostra democrazia. Non riesco a vedere il pericolo. Per la verità, non riesco neanche a vedere la democrazia. Tra qualche anno, forse, Enoch sarà il primo dei gerarchi, poiché egli è un uomo assolutamente mediocre. Un giorno, forse, Enoch vi ucciderà. C'è da morire da ridere, ma non dubitate. Non è questa l'ultima cosa che dirò. So fare il mio mestiere. Vedete al tavolo di Enoch, la moglie di Enoch? Ha veramente un bellissimo vestito, che le inguaina le forme rotonde, tutto di raso bianco, color porcellana. Adesso capisco perché si dice alla festa c'erano delle bellissime toilette. Signora, se le tiro quell'orecchino gigante immagino venga giù l'acqua, no? È vero, sì, sono volgare. Noi comici siamo volgari. Il mio camerino è così sporco che gli scarafaggi hanno preso una domestica ore. E ora vi lascio. Siete splendidi, grazie, grazie. Siete un pubblico meraviglioso. Applausi. Grappatax si inchina. Si avvicina al tavolo del gerarca Enoch. Il gerarca è molto risentito. Poi ride a una battuta. Grappatax si siede. Ridono ancora. Enoch mette una mano sulla spalla di Grappatax e lo rimprovera con un ditino. Brindano dissolvenza. Il filmato era finito. Nella casa di Grappatax scoppiò un fragoroso applauso, accompagnato dagli strilli dei nani. «Eri bravissimo!» pianse Bobo. «Sei ancora il migliore di tutti!» pianse Raul. «Gliela faremo vedere!» pianse Nick. Grappatax si era alzato dalla poltrona, abbracciava gli amici e si spostava di qua e di là con sorprendente vigore. Aveva indossato un vecchio smoking di scena, dentro al quale affogava con grazia. Tra quelli che lo complimentavano, riconobbi grandi comici del passato come Poldo Pelo, Bobo Cinski e Lara Belara. La vecchia soffitta, decorata con piante e fiori, piena di gente venuta per festeggiare, aveva cambiato aspetto. C'era quasi una parvenza di mondanità. «Non male questo loft party, vero?» mi disse Amadeus Politropo, passandomi vicino con 2 bottiglie di vodka per mano. Alice era più bella che mai. Aveva un vestito di velluto nero e girava dispensando sorrisi e tartine. René la Mucca, che aveva aggiunto al completo Domopac un papillon catodo fluorescente, raccontava ad alcune ammiratrici la nostra impresa, con prefazioni e postille. I nani facevano saltarelli quasi mortali. Maramei ballava con Balzer. E io? Non ero felice come previsto. Aspettavo qualcosa, non sapevo cosa. Mi ero tenuto sobrio, 10 Fernet corretti al ginseng. D'un tratto Alice mi si sedette vicino e mi baciò. Il giradischi ci regalò una Begin. Mi lasciai andare come un bambino in slitta. «Vorrei restare così tutta la vita», dissi. Alice si staccò da me, a disagio. Accese una sigaretta. «Allora, cosa ne pensi del video di Grappatax?» «Divertente, come sempre. Però il regime faceva male a preoccuparsi. Alla fine cosa si vede? Tutti insieme che ci ridono su, come nelle sigle dei dibattiti. Di cosa c'era ad aver paura? Sai quanto sono stupidi? Comunque ora mostreremo il filmato a tutti attraverso i canali segreti. Così si saprà che Grappatax è dei nostri. Terrete anche l'ultima parte? No, quella la taglieremo». «Continuo a non capire a chi dava veramente fastidio quel filmato», dissi. «Sei sempre stato un noioso moralista Baol», disse Alice, sventolandomi sulla guancia una ciocca di capelli. Grapatax quella sera si era reso conto di aver picchiato duro. Per un attimo ha avuto paura. Cos'è un attimo di debolezza nella vita di un uomo? Non ti sembra che dopo si sia ampiamente riscattato? Certo, dissi io, ma non è questo il punto. Il punto è che anche noi componiamo. O sbaglio? È necessario alla causa? Disse Alice. Non risposi. I nani passarono in piramide acrobatica, strizzando l'occhio. La gente era ubriaca e partivano cori e bicchieri. Grapatax faceva l'imitazione di un prete pazzo. La mia faccia non doveva mostrare niente di buono perché Alice mi prese per mano e mi portò fuori, all'aria aperta, sul tetto del loft. Era una notte stranamente limpida. C'era una luna molto seria. Sotto di noi le luci della città si univano a quelle dell'autostrada e a quelle del mare. Sì, c'era anche il mare. Dobbiamo combatterli con tutti i mezzi, disse Alice. Hai visto cosa hanno fatto ad Atarva? Credeva davvero di essere un Baol. Sai cosa c'era nella cassetta che ha preso? Il filmato della sua cattura a 12 anni. Il destino ha voluto che, almeno alla fine, riavesse indietro il suo passato. Lo mostreremo a tutti. E nelle altre cassette? In quella di Balzer c'era la distruzione dei suoi marziani. In quella di René Lamucca c'era l'assassinio di Macigno Liquirizia, il famoso lottatore nero impegnato contro l'apartheid. Avevano detto che era morto in palestra sotto un attrezzo gonfiamuscoli. È vero, ma sopra l'attrezzo c'erano salite 12 persone. Così sembra che tutti abbiano avuto quello che cercavano, dissi. E nella tua cassetta cosa c'era, professoressa Hauk? Nella mia? Le poesie Baol di Eshi. Ma dimmi, davvero, non mi avevi riconosciuta? No, eppure avrei dovuto capirlo subito. Quel vezzo di assumere il tuo vero nome come nome segreto. Non basta tingersi i capelli, mettere le lenti a contatto, fumare... Il neo? I nei bisogna toglierli. Lo consiglia qualsiasi dottore. Forse avevo paura che fossi tu. Avevo paura di ritrovarti e di questo momento. Ora devo chiedertelo. Perché sei sparita? Questo è il tuo segreto, Bedrosian. Non so se sei abbastanza vecchio per conoscerlo. Sono abbastanza vecchio per conoscere tutti i segreti di tutte le conversazioni, confidenze e confessioni di stanotte e ascoltare senza batter ciglio e tenere una mano sulla spalla di tutti. Beh, se è questo che vuoi, disse Alice. Si voltò all'improvviso. Mi sembrò che avesse gli occhi pieni di lacrime. Quando ti lasciai, soffrii moltissimo. Era stando vicino a te, parlando con te, che avevo deciso di diventare ribelle. È stata la tua presenza a farmi desiderare di cambiare vita. Ma c'è un momento in cui, dai sogni e dalle parole, si deve passare all'azione. È quello che feci, e ti lasciai. Ma perché non me l'hai detto? Perché non mi hai voluto con te? Perché tu non esisti, Bedrosian Baol. Questo è il tuo segreto. Nessun Baol esiste. Non dissi nulla. Non gridai. Non dissi che era pazza. Qualcosa dentro di me diceva che dovevo ascoltare e basta. Alice camminava, quasi invisibile sullo sfondo della notte, e la sua sagoma interrompeva a tratti il disegno delle luci della città. Non sei mai esistito, Baol, se non nei nostri sogni. Tu eri la fantasia che faceva inventare giochi ai tuoi amici. Eri il sogno della vita banale dei tuoi genitori, ciò che diede loro il coraggio di partire. Parlando con te, col compagno fedele ed entusiasta, il tuo amico Piotr trovò il coraggio di lottare. Dentro la cella, quel prigioniero ti inventò e riuscì a resistere, parlando con te dei suoi progetti. E così io, negli alberghi miserabili, nei locali spietati, ti vidi, parlai con te, mi innamorai di te e trovai la forza di cambiare. Quando iniziammo l'operazione Grapatax, pensammo ci vorrebbe un Baol al nostro fianco e subito ci riempimmo di entusiasmo. Senza di te non avremmo mai trovato il coraggio. Ma tutti, appena trovata la nostra strada, ti abbandonammo. Perché tu sei un'idea, Baol, e nessuna idea può mantenersi pura. Saresti svanito, come una bolla di sapone ai primi compromessi. Eppure noi ti abbiamo amato, veramente. Ma non tanto da farti vivere sempre con noi. Perché nessuno può amarti come vorrebbe. Ma tu ritornerai sempre, nella mia vita o in quella di qualcun altro. Non voglio, dissi. Non voglio che tu sparisca ancora una volta. Io verrò con te. Succederanno cose diverse da quelle che avevamo sperato. Verrà il giorno che il dolore del mondo sarà così grande che, per un attimo, volteremo la testa per non vederlo. In quell'attimo sparirai, Baol. Non puoi venire con noi. ma non ti dimenticheremo. Portatemi con voi, gridai. Ora, ci sono molte cose da fare, disse Alice. Mi sfiorò il viso con una carezza. La sua mano era leggera come l'aria. Quasi non sentii la seconda carezza. Chiusi gli occhi. Non ci fu una terza carezza. Quando li riaprii, la soffitta era vuota, piena di bicchieri di carta, cicche, bottiglie rotte. I corvi gracchiavano sul tetto. Ero di nuovo solo.